Davo un'occhiata in giro per vedere a chi veniva la bella idea, quando, boia miseria, eccotelo un'altra volta, facendo finta d'avere una furia cane. Ho fatto una capatina in tribunale, dice, per vedere se lei era là. Spero di non. No, dice Martin, siamo pronti. Tribunale un accidente, con le tasche zeppe di quattrini, brutto spilorcio fottuto. Offrici da bere. Che diavolo di paura! Eccolo l'ebreo, tutto per la pancia sua, furbo come un topo di chiavica. 100 contro 5. Non lo dica a nessuno, dice il cittadino. Come dice? Fa lui. Forza, ragazzi, andiamo, dice Martin, vedendo che le cose si mettevano male. Andiamo via. Non lo dica a nessuno, fa il cittadino con un urlaccio. È un segreto! E il cagnaccio fottuto si svegliò e fece un ringhio. Arrivederci a tutti, dice Martin, e se li trascinò dietro il più presto possibile, Jack Power e Crofton, o come diavolo si chiama, e lui in mezzo a loro, che fa finta di non capirci un accidente, e via sul carrozzino fottuto. Filare, dice Martin al vetturino. Il niveo delfino scosse la criniera e, salendo all'aurea poppa, il nocchiero spiegò al vento la vela rigonfia e si allontanò a vele spiegate secondo fiocco a babordo. Una frotta di ninfe leggiadre s'appressò a babordo e a tribordo e, attaccandosi ai fianchi del nobile vascello, intrecciarono i loro corpi lucenti come fa l'esperto carradore quando adatta al mozzo della ruota i raggi equidistanti di cui ciascun è fratello dell'altro, e li cinge tutti di un cerchio esterno, e in tal guisa aggiunge prestezza al piede dell'uomo, sia che corra all'agone, sia che tenzoni per il sorriso di donne belle. Pur così furon viste accorrere e disporsi le ninfe avvenenti, immortali sorelle. E ridevano, sollazzandosi nella cerchia della lor spuma, e il vascello fendeva i flutti. Ma per Diana, avevo appena posato il cul del bicchiere che ti vedo il cittadino alzarsi e cempennare verso la porta, sbuffando e soffiando come un idropico e tirandogli addosso la maledizione di Cromwell, campana, libro e candela in irlandese, sputando e sputacchiando di rabbia, e Joe e il piccolo Alf intorno a lui come un folletto, cercando di rabbonirlo. Lasciatemi fare, dice lui. E per Diana ti arriva alla porta e loro a tenerlo e bercia con quanto fiato ha in corpo. Tre viva per Israele! Via! Sta tranquillo e rimetti il culo a piombo, per l'amor di Dio, e non stare a dar spettacolo. Cristo, c'è sempre qualche pagliaccio, un fottuto che per delle fottute fesserie vuol provocare un fottuto putiferio. Per Diana, roba da farti torcer le budella, davvero. E tutti gli straccioni e le sgualdrine della nazione intorno alla porta. E Martin che diceva al vetturino di tirar via. E il cittadino che berciava, e Alf e Joe ai panni che lo zittivano, e lui sul caval d'Orlando contro gli ebrei, e quegli sfaccendati che chiedevano un discorso, e Jack Power che cercava di farlo mettere a sedere sulla carrozza e tener chiuso quel fottuto becco, e un fannullone con una benda sull'occhio che attacca a cantare: Se l'uomo nella luna fosse ebreo, eo, eo. E una sgualdrina urla per di fiato: Ehi, sor Coso, ci hai la bottega aperta? E lui a dire: Mendelssohn era ebreo, e anche Carlo Marx, e Mercadante, e Spinoza, e il Redentore era ebreo, e suo padre era ebreo, il vostro Dio. Non aveva padre, dice Martin, ma ora basta, via, partiamo. Il Dio di chi? Dice il cittadino. Beh, suo zio era ebreo, dice lui, il vostro Dio era ebreo, Cristo era ebreo come me. Per Diana, il cittadino si rituffò nella bottega. Per Cristo, dice, Gli faccio uscire le cervella a quell'ebreo fottuto che si permette di usare il santo nome. Per Cristo, lo crocifiggo. Vedrete, a me quella scatola di biscotti. Ferma, ferma, dice Joe. Un'imponente, amichevole accolta di amici e conoscenti dalla metropoli e sobborghi di Dublino era convenuta, migliaia e migliaia di persone, per dare l'addio a Nagia Sagos Uram Lipoti Virag, ex dipendente di Alexander Thom & Co., stampatori di Sua Maestà, in occasione della sua partenza per i lontani lidi di Sazarmins Broyu Gulias Dugulas, prato delle acque mormori. La cerimonia che si svolse con grande éclat fu caratterizzata dalla più commovente cordialità. Un rotolo miniato di antica pergamena irlandese, opera di artisti irlandesi, fu donato all'illustre fenomenologo da parte di un importante settore della comunità e fu accompagnato dal presente di uno scrigno d'argento, lavorato con gusto nello stile dell'antica ornamentazione celtica. Un'opera d'onde ridonda lustro sugli artefici, i signori Jacob Agus Jacob. L'illustre partente fu oggetto di una calorosa ovazione, essendo molti dei presenti visibilmente commossi quando la scelta orchestra di cornamuse irlandesi attaccò il ben noto motivo di Torna ad Erin, immediatamente seguito dalla Marcia di Racozzi. Si accesero barili di catrame e fuochi di gioia lungo la costa dei quattro mari, sulle cime della collina di Howth, della montagna delle tre rocce, del pan di zucchero, di Braehead, dei monti di Mourne, dei Galtis, dei picchi di Ox e Donegal e Sperrin, dei Nagol e dei Bograghs, delle colline di Connemara, delle paludi di McGilligaddy, dello Slieve Oughty, dello Slieve Bernagh e dello Slieve Bloom. Fra acclamazioni che fendevano l'etere, cui fecero eco gli evviva di una notevole schiera di scherani sulle lontane pendici cambrie e caledoniche, la mastodontica nave da crociera si mosse lentamente, salutata da un ultimo omaggio floreale delle rappresentanti del gentil sesso che erano presenti in gran numero, mentre nel discendere il fiume, scortata da una flottiglia di barconi, ricevette il saluto delle bandiere della capitaneria del porto e della dogana, abbassate in suo onore, e più oltre quelle della centrale elettrica Pigeon House e al faro Pulberg. Vissont la trastra, Kedves, Baratom, vissont la tastra. Partito ma non dimenticato. Per Diana, manco il diavolo gli avrebbe impedito di abbrancare quella scatola fottuta, e fuori di nuovo, e il piccolo Alf lo teneva per il gomito, e lui strillava come un porco al macello. Sembrava uno di quei drammi fottuti del Queen's Royal Theatre. Dov'è? Che lo voglio ammazzare! E Ned e JJ non ne potevano più dal ridere. Fottuta miseria, faccio io, voglio arrivare in tempo per il Vangelo. Fortuna che il fiaccheraio era riuscito a far voltare la testa alla rozza e via di galoppo. Basta, cittadino, dice Joe, fermo! Ma lui, per Diana, allunga il braccio e prende la ire e lascia andare. Grazie a Dio che ci aveva il vino negli occhi, se no te lo stendeva secco. Per Diana, a momenti lo fa volare fino a Longford. Quella rozza fottuta si spaventò e il vecchio bastardaccio via dietro a fare il diavolo a quattro e tutta la marmaglia a urlare e a ridere e la vecchia scatola di latta che sferragliava sul selciato. La catastrofe fu terrificante e istantanei i suoi effetti. L'osservatorio di Dunsink registrò in tutto 11 scosse, tutte del quinto grado della scala Mercalli, e non si ricorda a memoria d'uomo una simile scossa sismica nella nostra isola dal terremoto del 1534, l'anno della ribellione di Thomas il vellutato piaggiatore. L'epicentro sembra sia stato in quella parte della metropoli che consta del rione della riva Inn e della parrocchia di St. Michael, per una superficie di 41 iugeri, due pertiche o pali e un braccio quadrato. Tutte le residenze signorili nei pressi del Palazzo di Giustizia sono state abbattute e anche quel nobile edificio, nel quale al momento della catastrofe si stavano svolgendo importanti dibattiti, è letteralmente un ammasso di rovine e c'è ragione di temere che tutti quelli che vi si trovavano siano rimasti sepolti vivi. Da relazioni di testimoni oculari, sembrerebbe che le onde sismiche fossero accompagnate da una violenta perturbazione atmosferica di carattere ciclonico. Un copricapo, che si è poi accertato appartenere allo stimatissimo cancelliere della corona, Mr. George Fottrell, e un ombrello di seta con manico d'oro, iniziali, cimiero, stemma e indirizzo del dotto e venerato presidente delle sessioni trimestrali Sir Frederick Falkiner, primo magistrato di Dublino, sono stati rinvenuti dalle squadre di salvataggio in parti remote dell'isola e rispettivamente il primo sul terzo crinale basaltico della Via dei Giganti, il secondo incassato alla profondità di un piede e 3 pollici nella sabbia della spiaggia della baia di Hall Open, vicino all'antico capo Kinsale. Altri testimoni oculari depongono di aver osservato un oggetto incandescente di enormi proporzioni, scagliato attraverso l'etere a velocità terrificante con traiettoria sud-ovest-ovest. Messaggi di condoglianze e di simpatia pervengono d'ora in ora da ogni parte dei vari continenti e il Sommo Pontefice si è graziosamente compiaciuto di decretare che una speciale missa pro defunctis sia celebrata simultaneamente dai titolari di tutte le chiese cattedrali di tutte le diocesi episcopali soggette all'autorità spirituale della Santa Sede, in suffragio delle anime dei fedeli deceduti che sono stati chiamati così inaspettatamente nel mondo dei più. Il lavoro di recupero, rimozione di debris, di resti umani, eccetera, è stato affidato alla ditta Michael Mead & Figlio al numero 159 di Great Brunswick Street e alla ditta T&C Martin ai numeri 77, 78, 79 e 80 di North Wall, col concorso della truppa e degli ufficiali della fanteria leggera del Duca di Cornovaglia, sotto la supervisione generale di SAR, il contrammiraglio, onorevole Sir Hercules Hannibal Habeas Corpus Anderson, Cavaliere dell'Ordine della Giarrettiera, Cavaliere dell'Ordine di San Patrizio, membro dell'Ordine dei Cavalieri Templari, membro del Consiglio Privato di Sua Maestà, Commendatore dell'Ordine del Bagno, deputato al Parlamento, giudice di pace, dottore in medicina, decorato per meriti distinti, dichiarato pervertito distinto, maestro della caccia alla volpe, membro dell'Accademia Reale Irlandese, dottore in legge, dottore in musica, amministratore della legge sui poveri, libero docente del Trinity College di Dublino, libero docente dell'Università Reale d'Irlanda, iscritto all'albo professionale dei medici d'Irlanda, iscritto all'albo professionale dei chirurghi d'Irlanda. Una cosa simile non te la sei neanche mai sognata. Perdiana, se gli fosse arrivato quel biscottino sulla zucca se ne sarebbe ricordato un pezzo della coppa d'oro, perbacco. Ma il cittadino sarebbe finito in gattabuia per vie di fatto e Joe per concorso in reato. Il fiaccheraio salvò la situazione mettendo la bestia al galoppo sfrenato. Quant'è vero che Dio ha creato Mosè. Come? Cristo se filò e l'altro gli snocciolò dietro una sfilza di moccoli. L'ho ammazzato, dice, sì o no? E urla al cagnaccio fottuto, dagli dietro, Garry, dagli, bello mio. E l'ultima cosa che si vide fu quel maledetto carrozzino che doppiava l'angolo con su quella testa di pecorone che gesticolava. E il fottuto bastardaccio dietro con le orecchie schiacciate che ce l'avrebbe fatta farlo a pezzi. 100 contro 5. Cristo, gliel'ha fatta pagare, ve lo garantisco io. Quando ecco un grande splendore venne a loro intorno ed essi videro il carro su cui egli stava per ascendere al cielo e videro lui nel carro, rivestito nella gloria di quello splendore, che aveva vestimento come del sole, bello come la luna e terribile, sì che per tema non osarono levar gli occhi a lui. E venne una voce dal cielo che chiamava: Elia, Elia! Ed egli fece risposta con un grido possente: Abba, Adonai! E videro lui, lui appunto, ben blum Elia, in mezzo a nugoli d'angeli, ascendere alla gloria dello splendore, a un angolo di 45 gradi al di sopra di Donoe in Little Green Street, come una palettata scagliata da un badile.